Cosa stiamo ascoltando, fratello? Techno Wants, Orchestra Maldestra. Bogaci via questo. Il cammino su un sentiero di lino che è una qualunque passeggiata in mezzo alla carreggiata. Spettacolo, frate. Se eseguo un programma, voglio che il gioco mi faccia da mamma. Voglio che il gioco mi faccia da mamma. Gigi D'Agostino, un uomo scuro, scontroso e un po' giocondo. Musicista, sognatore, imprenditore e vagabondo. Un piccolo paese fuori dal mondo. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. D'Agostino e Luca Nois dal vivo. domani sera, sabato 4 marzo 2006, ore 22:30, discoteca MEP, via La Tiro 21, località Sestri Levante, Genova. M. 2 O. La radio è questa qui. Sì. Se dico fermate. Fermate. Te stai comodo in salotto e io suono alle 18. Durante il cammino di Gigi D'Agostino. D'ora in poi ascolta ciò che vuoi dal tuo salotto ogni giorno alle 18, però M2O. Per votare basta cliccare www.gigidagostino.com. Pom pom pom pom pom. Si apre la paginetta e scegli la canzonetta. A fianco al titolo troverai un pallino e lì dentro metterai il votino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ascoltando Mosquito Song, officina emotiva. Come on the trees, listening to the

frequenze di M2O nella tua città, digita gratuitamente 800-274-345. M2O ad Ancone, Pesena, Forlì, a Napoli, a Roma, a dove? A Rimini, a Bologna, a Cagliari, a Milano e provincia. M2O. In tutta Italia. 800-274-345. Per sapere su quali frequenze ascoltare la musica allo stato puro di M2O. Ciao, Vicioletti. Musica allo stato puro. È uscita la nuova compilation. 14 brani mixati. Traccia CD-ROM. E il nuovo cortometraggio musicale con tutti i DJ di M2O. M2O, musica allo stato puro. La nuova compilation di M2O è nei negozi di dischi e nelle edicole a 9,90€. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ribelle di Hollywood. Parla Frances Bean, la figlia di Kurt Cobain e Courtney Love. Musica, Ben Harper, Morrissey, Placebo e Coolio con Snoop Dogg. Libri, il ritorno di 3 metri sopra il cielo. Il nuovo numero di XL è in edicola a solo 1,90 euro in più a richiesta con Repubblica. Hit Mania Club Dance con tutti i successi del momento. Hit Mania Club Dance, la compilation per chi ama la dance. In allegato a Hit Mania Magazine, in edicola e nei negozi di dischi a 9,90 euro. M2O, musica allo stato puro. Stai a capì? Sì, sì, ho capito. Questo disco qua che stai ascoltando è... The Final Countdown, il folklorista. Questa è la marcia. ascoltando Más Fuerte, Uomo Suono. Lo stato puro. Titolo: Cielo, artista non pervenuto. D'Agostino. Accelerata, va. Yeah.

l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... Sabato 4 marzo all'Energy Disco Club Ciampino, Diabolica Sound System, T. Lewis, Emix, Special Guest, Andrea Doria. M2O, Diabolica, Inferno House, DM2O. Sabato 4 marzo all'Energy Disco Club Ciampino e in FM, in diretta da mezzanotte su M2O. Allo stato puro è di nuovo su CD, 15 tracce mixate, traccia CD-ROM con l'archivio delle sigle e le schede dei DJ di M2O. In più il nuovo cortometraggio musicale M2O Eleven. Come on, job, put your hands up. Mixa and selector number one by Provenzano DJ, the dance movement number one. La compilation di M2O è nei negozi di dischi e nelle edicole con il nuovo numero di Pianeta M2O a 9,90€. M2 online connessione veloce. Saluto tutti gli schelli italiani che stanno a sentire il folclorista del Giragostino, il cammino del Giragostino. Vi saluta Fabio Energy da Foli. Dalla capitale il ritmo che più vale è il ritmo del Gigi D'Agostino. Grande Gigi. Ciao da Pietro, ciao ciao. Gigi Dato, ti voglio troppo, troppo, troppo, troppissimo bene. Ciao M2O, mandami questo messaggio, ti prego, a Gigi D'Agostino che è un grande. Noi lo ascoltiamo tutti i giorni, siamo tanti e forza Gigi. 800-800-626 M2O. Seduti! Bene, ora! Di quale figura mitologica greca abbiamo parlato l'ultima volta? Risponda, risponda! Bianchi! Pegaso! Giusto, bravo Bianchi. Cosa aveva di speciale Pegaso? Aveva cosa? È stato il primo cavallo a bere Red Bull. Il primo somaro, come te, Bianchi. Ho bisogno anch'io di un Red Bull. Red Bull ti mette le ali. M2O dal vivo. Out of mind. Real Trust e Roberto Molinaro per sabato pomeriggio 4 marzo hanno selezionato Discoteca Vaniglia, Genova, e per sabato sera Taverna 04, Lamporecchio, Pistoia. M2O dal vivo! Stardust e Paolo Bolognesi per venerdì 3 marzo hanno selezionato Discoteca Seler, Bari, e per sabato 4 marzo Discoteca Replay, Foggia. M2O dal vivo! È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Poco resterà piccino il cammino di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Lento. Violento. Questa è la marcia. Questo disco qua che stai ascoltando è Don't Cry Tonight. Gigi D'Agostino. Find the light and I'm so shed away. If you never, never let me go with every melody. And you hope to wear the living just my life. If you really know the target and back to my fantasy. Me too. Ti dico fermati. Qui si parla lento, violento, violento, violento.